9 in punto, la versione di Oscar. 9:11 è rotto in punto. Comunque, Oscar Giannino vi saluta, rapidamente va al punto. Ovvio che vi fossero notizie tali da rendere necessario l'aggiornamento di questo sisma sconvolgente che in Giappone, interrompiamo la trasmissione e i colleghi del GR lanciano le news. Il tema della trasmissione sono i 18 articoli della riforma della giustizia varata dal governo ieri. È una riforma in cui sui giornali in questi giorni avete già appreso i capisaldi, buona sostanza, inutile che io vi li riapprofondisca: appellabilità delle sentenze diverse tra condanna e invece assoluzione disposta solo nei casi della legge, quindi si va verso un'appellabilità più limitata nei confronti delle assoluzioni, CSM che cambia profondamente. E cambia profondamente perché cambia innanzitutto i ruoli della giustizia giudicante e requirente, perché c'è la separazione e quindi andiamo a due CSM, uno per la magistratura giudicante e l'altro per la requirente, che non possono adottare atti di indirizzo politico, niente più pareri sulle leggi, né esercitare funzioni diverse da quelle previste dalla Costituzione. Sull'esercizio dell'azione penale e quindi sull'obbligatorietà, modifiche profonde, perché si prevede che l'articolo 112 della Costituzione venga modificato, il PM ha l'obbligo di esercitare l'azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge, cambia la funzione ispettiva che resta in capo al Ministro della Giustizia, così come le funzioni organizzative, ovviamente sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, però il guardasigilli, la novità è che deve riferire annualmente alle Camere sullo stato della giustizia e anche sull'esercizio dell'azione penale, sull'uso dei mezzi di indagine, quindi si cambia l'articolo 110 della Costituzione. Si cambia anche l'articolo 102 della Costituzione, dove viene specificato che la giurisdizione è esercitata da giudici ordinari istituiti regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, rispetto al vecchio testo che diceva la funzione giurisdizionale esercitata da magistrati ordinari istituiti regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Si cambia l'articolo 106 sulla nomina dei magistrati, l'articolo 106 che prevede che la nomina dei magistrati avvenga per concorso, e si modifica il secondo comma che riguarda la nomina anche elettiva di magistrati onorari, cancellando l'inciso per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Si cambia in materia di polizia giudiziaria: il giudice, sia il giudice sia il PM possono disporre della polizia giudiziaria, ma secondo le modalità stabilite dalla legge, non sono più il dominus della polizia giudiziaria come è avvenuto con il nuovo codice. Cambiano i provvedimenti disciplinari, perché si introduce una modifica al 105 della Costituzione e si prevede che i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano una corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente, e il criterio come nei nuovi CSM è quello di togati non più in stragrande maggioranza e quindi praticamente non più in grado di esercitare il totale autocontrollo rispetto anche alla funzione disciplinare, come all'attribuzione delle funzioni apicali e degli uffici giudiziari, come avviene oggi, che ha fatto parlare i critici dell'ordinamento giudiziario come concretamente si è voluto, di una caratteristica che non c'è e non c'è davvero in nessun paese occidentale, in nessun paese avanzato. In nessun paese avanzato, cioè l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, ha configurato istituti di garanzia talmente forti e pregnanti per cui dalle carriere agli avanzamenti, all'azione disciplinare, i magistrati, siccome sono in maggioranza nel loro CSM, sono praticamente domini di se stessi. E cambiamenti ancora sulla responsabilità dei magistrati, sul trasferimento dei magistrati. Sapete che è una riforma che divide, riforma tra le proteste, questo è il titolo della stampa, il titolo di Repubblica è La rivolta dei magistrati, il Messaggero preferisce giustizia via la riforma, ma insomma è una riforma di cui l'obiezione di chi come me la chiede da prima e da sempre di Berlusconi è un'obiezione che io richiamo facendo ricorso alle parole stesse del Premier pronunciate ieri. Ascoltiamola un secondo. Questa riforma noi l'abbiamo praticamente pensata dal 94, da quando scesi in campo. Io ebbi a dire in alcune riunioni che non mi sarei allontanato dalla politica se non dopo aver finalmente introdotto una riforma, che era questa riforma sin da allora, nel nostro ordinamento. Probabilmente non ci sarebbe stata l'esondazione della magistratura, l'invasione da parte della magistratura e della politica, e non ci sarebbero state quelle situazioni che hanno portato a dei cambiamenti di governo, all'annullamento di un'intera classe dirigente nel 92-93, all'abbattimento di un governo eletto dagli italiani nel 94, alla caduta di un governo della sinistra nel 98, causata proprio dalla previsione di modifica della giustizia presentata dal ministro della giustizia Mastella, e il tentativo in corso attualmente di eliminare per via giudiziaria il governo in carica. Ora, a parte l'obiezione elementare che Berlusconi è in politica grazie a Mani Pulite, e senza Mani Pulite sarebbe rimasto il magnate tycoon, avrebbe avuto altro sviluppo, con ogni probabilità la sua vita di imprenditore finanziere, ma senza Mani Pulite non sarebbe dove sta. A parte questo, l'obiezione di fondo, la mia è simmetrica, e siccome io sono convinto che l'eccezione italiana nell'organizzazione dell'ordine giudiziario, l'eccezione rispetto a tutti i paesi avanzati, sia un'eccezione che non ci consente di dire che se in tutti gli altri settori della pubblica amministrazione e della vita istituzionale siamo meno efficienti, in questo abbiamo raggiunto l'optimum, questa è una mia vecchia convinzione, io credo che forse questa riforma andava intavolata dall'inizio dell'esperienza di Berlusconi, non al punto in cui siamo dopo 17 anni. Oggi sarà ancora più difficile prevedere una cooperazione con l'opposizione, che è sempre meglio. Ricordo a tutti che la bozza boata della bicamerale D'Alema, in parole povere, sia pure con differenze nel dettaglio, toccava tutti i punti di questa riforma. Lo dico apposta prima di dare la parola ai membri dell'opposizione, perché questo è un fatto. Naturalmente il fatto è che tutto ciò ce lo si dimentica quando si vive nello scontro politico più radicale come quello di questi mesi. Forse se si fosse messo mano all'ordinamento da riformare, invece che di questo si tratta, la legge ad personam, avremo la riforma e non avremo il conflitto politico, o quantomeno non lo avremo in questa forma qui. Questa è la mia opinione, punto. Vedremo questa riforma se verrà approvata. Io temo che ci sarà spaccature tali da rendere molto difficile un suo passo avanti di approvazione, e me ne dispiace, perché io sono convinto che il più dei punti toccati in realtà avrebbero bisogno di risposte, non dico 100% come quelle previste oggi, ma insomma 95%, ecco, questa è la mia opinione, però capisco che oggi non prevarrà il merito. Qui sono gli ospiti di questa prima parte della trasmissione. Abbiamo innanzitutto con noi Nicola Latorre, che è vicepresidente del PD al Senato. Grazie senatore Latorre. Grazie a lei, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. E il professor Giuseppe Di Federico, i nostri ascoltatori lo conoscono, è un mio punto di riferimento costante per i problemi dell'ordinamento giudiziario, il professore emerito di ordinamento giudiziario all'Università di Bologna. Buongiorno al professor Di Federico. Buongiorno anche a lei e agli ascoltatori. Allora, iniziamo con il senatore Latorre. Nella seconda parte della trasmissione c'è poi un esponente della maggioranza. Allora, innanzitutto il giudizio politico generale, poi entriamo un pochino nel merito. Prego, Latorre. Ma guardi, l'introduzione che ha fatto lei, con tutti i condizionali che l'hanno accompagnata, mi trovano sostanzialmente d'accordo e spiegano le ragioni di una difficoltà. Prima di entrare nel merito, e ne parleremo perché anche nel merito ci sono una serie di considerazioni da fare, noi dobbiamo avere la consapevolezza che affrontare questo tema significa intervenire su uno dei poteri la cui separazione dagli altri poteri e la cui autonomia è uno dei pilastri su cui si fonda la nostra democrazia. Ora io mi chiedo, le chiedo, chiedo ai radioascoltatori, un intervento di questa natura è immaginabile nelle condizioni politiche attuali? Non appaia questo un modo per dribblare il merito delle questioni, insisto, anche su questo tornerò, ma le condizioni politiche sono una premessa fondamentale se si deve affrontare una materia di queste proporzioni e i cui effetti incidono sul funzionamento effettivo della democrazia italiana. Allora guardi, noi siamo da 17 anni siamo nel pieno di uno scontro politico nel quale il tema della giustizia è stato utilizzato come una clava per dividere questo paese e ha alimentato lo scontro politico. Noi siamo in una situazione particolare, quella che viviamo in questi giorni in Parlamento, nei quali c'è una maggioranza raccogliticcia che non ha più i presupposti politici sui quali aveva stravinto le elezioni, ma che raccoglie in qualche modo i numeri per sopravvivere. C'è una situazione che molto opportunamente lei sottolineava, e cioè che una serie, non mi riferisco solo al Presidente del Consiglio, ma ci sono esponenti politici indagati piuttosto che sotto processo, e so bene che questo intervento non agirebbe sui processi in corso, ma certamente non potremo prescindere da questo nelle valutazioni che si faranno. Tutti questi elementi rendono, come dire, già impraticabile il campo per un intervento di questa natura. Allora dobbiamo rinunciare ad intervenire sui mali che ci sono nella giustizia? Io credo che sia sbagliata anche questa posizione. E allora, intanto non vedo la urgenza di queste modifiche costituzionali. Si può cominciare ad affrontare la questione partendo intanto da una scelta politica di fondo, quella di rimuovere il campo da ogni legge ad personam che naturalmente condiziona tutto il dibattito. Poi si cominci ad agire con interventi legislativi di carattere ordinario, e ce ne sono e se ne possono fare tanti, alcuni dei quali corrispondono anche alle questioni che lei stesso sottolineava come esigenze irrinviabili. Penso ai tempi del processo, penso addirittura al tema della responsabilità civile dei magistrati, che è un tema serio, è un tema peraltro confortato da un risultato referendario piuttosto rilevante alcuni anni fa, ma che non può essere tradotto in una norma costituzionale che non tiene conto del fatto che poi il magistrato agisce con una in un campo e con una peculiarità che naturalmente lo deve tenere al riparo dai rischi di un uso strumentale anche di ricorsi che ne condizionerebbero anche l'autonomia e il funzionamento, e che si può prendere in considerazione un intervento sulla legge o con legge ordinaria che contempli questa tutela dell'autonomia del magistrato e del suo lavoro con la tutela dei diritti dei cittadini. Mi faccia poi dire un'ultima cosa sul merito. Attenzione, perché se il principio dell'autonomia è un principio irrinunciabile, perché poi se lo si vuole mettere in discussione allora è un altro conto, ma mi pare che in linea di principio neanche il ministro della giustizia dice questo. Allora riflettiamo, perché il combinato disposto di separazione delle carriere, di rinuncia all'obbligatorietà dell'azione penale e di autonomia della polizia giudiziaria, il combinato disposto di questi tre elementi oggettivamente pone un problema rispetto all'autonomia del potere della magistratura. Insomma, l'insieme di queste considerazioni suggerirebbe un percorso diverso che non rinuncia ad affrontare i mali della giustizia e che attraverso una serie di interventi di carattere ordinario crei anche le condizioni per affrontare poi eventualmente alcune altre questioni di rilievo costituzionale. Io naturalmente ricordo, questa è pur sempre la radio di Confindustria, ma lo dico per convinzione personale, per l'economia, per le imprese, la parte più rilevante di tutto questo, al di là del fatto che per chiunque di noi ovviamente esiste un problema di garanzie, e quindi la responsabilità civile del magistrato, la polizia giudiziaria, sono temi che toccano tutti, non c'è dubbio, perché io sono per un ordinamento che costituisca delle garanzie per il cittadino a difesa rispetto a ciò che lo Stato ti viene a contestare, e sono per la parità delle parti, questo è il motivo per cui sono anche per la separazione delle carriere. Ma al di là di questo, per l'economia la cosa importante innanzitutto è la giustizia civile, non ce lo dimentichiamo, non ci dimentichiamo che in media in Italia i tempi della causa civile sono tre volte superiori alla media degli altri paesi, i numeri sono impietosi, 1210 giorni da noi di media per una causa civile, in paesi come la Francia bastano 331 giorni, in Germania 394, Regno Unito 399, da noi non solo è eternamente più lunga ma è indannatamente più costosa, da noi si tratta in media per le imprese, per vedersi garantiti i termini contrattuali, di pagare il 30% delle somme contestate, stiamo parlando di più di 10 punti percentuali rispetto a alla media dei paesi OCSE. Non è vero che da noi si spende meno che dalle altre parti, anzi si spende di più, perché noi abbiamo una spesa per abitante di 47 euro per il tribunale, di 20 euro per i pubblici ministeri. In Francia sono 10,4 euro, capite? E 14,5 euro per i pubblici ministeri, quindi spendiamo molto di più. In relazione al PIL spendiamo di più, lo 0,2% per mantenere i tribunali e lo 0,09 per mantenere i pubblici ministeri, più del doppio dei francesi, 10 volte quello che spendono gli inglesi. Questo per dire che la famosa storia "manca la carta nei tribunali" è, perdonatemi, una palla. Manca sicuramente, ma manca perché sono amministrate malissimo le risorse. Basta vedere tutto ciò che è stato speso, abbiamo fatto una trasmissione apposta, miliardi spesi per l'informatizzazione, che in nome dell'autonomia confusa non si capisce perché, con il fatto che ogni ufficio giudiziario decide per i fatti suoi, abbiamo 5.000 server che non comunicano, miliardi buttati via. Questa inefficienza di cui rispondono i capi degli uffici giudiziari, e non c'entra niente con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, come dimostrato dai casi conosciutissimi, almeno su questa radio, di Torino e di Bolzano, di capi degli uffici che, a parità di risorse, senza piangere miseria, hanno dimostrato come si possano ridurre i carichi e di abbattere i tempi, semplicemente, invece che frignare, organizzarsi secondo principi di efficienza, invece che stare a dire ai cittadini tutti i giorni che il governo cattivo pro tempore, di qualunque colore esso sia, rosso, nero, non mi interessa, non c'ha la carta per far funzionare la fotocopia, perché questo è l'eterno mantra di chi scambia l'efficienza con i posti in organico. Detto questo, il professor De Federico, di questo impianto, di questi 18 articoli, cosa la convince e che cosa no, tecnicamente? Diciamo, vengono affrontati dei problemi che sono reali, come quello della obbligatorietà, anche se poi nelle leggi di attuazione non si parla dei mezzi di indagine, che negli altri paesi fanno parte delle priorità. Poi sembra che dal combinato disposto della legge, della riforma costituzionale e delle leggi di attuazione, sembrerebbe che le priorità le stabilisca il Parlamento, il che, se uno solo conoscesse come viene fatta e quali sono le procedure per la fissazione delle priorità e dell'uso dei mezzi di indagine, capirebbe che questo è praticamente impossibile. Ci vuole qualcuno che si prenda la responsabilità di fronte al Parlamento di questo tipo di operazione, che è un'operazione complessa. Basterebbe guardare, e certamente non è completa, la bozza fatta da Marcello Maddalena per la Procura di Torino, che è un documento molto lungo, per rendersi conto che il Parlamento non è in grado di fare, non potrebbe in nessun modo fare questo. Quindi già c'è un difetto di manico all'inizio, non si prevedono le modalità con cui pervenire a questo. Potrei fare degli esempi, ma ritengo che se fossi coinvolto nel procedimento di riforma, diciamo, mi ci vorrebbe un bel po' di tempo e non posso certamente farlo qui. Quindi ha posto il problema dell'obbligatorietà, ha indicato, almeno così come appare, perché sono indicazioni molto generiche, che il primo attore di questa regolamentazione dell'obbligatorietà sarebbe il Parlamento, che non è l'organo adatto, non lo fa in nessun altro paese dove vengono regolate. Se prendiamo ad esempio la riforma che aveva proposto Falcone, io ero con lui, quindi ne so qualcosa, solo per i procedimenti relativi alla criminalità organizzata, lui coinvolgeva il governo oltre che il Parlamento. Quindi, diciamo, qui ci troviamo di fronte a delle remore che sarebbero da valutare anche quanto alle loro cause, perché ricordiamoci che il proponente, il ministro, il ministero che aiuta il ministro, è fatto in una certa maniera. Vabbè, non entro nel merito perché sennò arriveremo troppo lontano. Vediamo il CSM. Però è evidente che, in sintesi, lei dice su questo sistema dell'obbligatorietà, per non dire esplicitamente che deve essere qualcuno in nome per conto o insomma con l'esecutività del governo, si parla del Parlamento, il Parlamento non si perderebbe in un mare magnum. Ecco, in parola poco. Non vuol dire che non debbano essere coinvolti i magistrati. Chiaro, chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Le proposte, esatto, di fondo vengono fatte da chi conosce meglio la situazione della criminalità. Allora, quindi, diceva, si sì, ma questo è chiaro, senza riapprofondire, però diceva, secondo tema, la separazione. Beh, la separazione delle carriere è un procedimento estremamente lento se non viene coadiuvato da una regolamentazione molto efficace delle attività del pubblico ministero, con una responsabilizzazione rispetto ai risultati della sua attività. Negli altri paesi si valuta la misura in cui le richieste del pubblico ministero vengono convalidate e rese definitive dal ministro, e questo grava sulla sua valutazione di professionalità. Fin quanto non si fa questo, e certamente sulle valutazioni di professionalità l'argomento non viene affrontato né per i giudici né per i pubblici ministeri. Si riassegna al Consiglio Superiore il reclutamento e la valutazione di professionalità ai fini della promozione senza nessuna variazione. E allora adesso queste valutazioni non vengono fatte. Noi abbiamo fatto, si è aumentata nel 2006-2007 il rigore con cui vengono fatte le valutazioni, e a questo maggiore rigore, e lo posso provare con i numeri, corrisponde una maggiore indulgenza nei confronti dei magistrati. Fino al 2009, con la nuova legge, più di 1000 persone, nessuno è stato valutato negativamente, nessuno. Nel frattempo si venivano ancora valutazioni negative con la vecchia legge, che era meno rigorosa. Perché? Perché con la nuova legge le conseguenze per il magistrato di una valutazione negativa sono molto più forti di quanto non fossero prima. E quindi tanto vale non applicarle. Per sottolineo a tutti coloro che sono ascolto, nessuno, avete sentito cosa ha detto il professore? Nessuno, questo perché i magistrati poi dicono che sono severissimi nell'esercizio invece del loro clam. Alcuni ascoltatori chiedono, ma si può capire meglio come funziona negli altri paesi? Vedremo se riusciamo al professor De Federico a farci spiegare meglio. In ogni caso, guardate, in moltissimi paesi la separazione dell'ordine giudiziario è un principio sicuramente affermato costituzionalmente, come da noi, ma l'organizzazione è molto diversa. I pubblici ministeri sono funzionari che o rispondono all'esecutivo o comunque sono funzionari che fanno parte dell'amministrazione pubblica governativa, come avviene a rispondere all'esecutivo in Francia, sono parte dell'organizzazione pubblica invece dei governi regionali e federali in Germania, e tutto questo in quei paesi ha alimentato dibattiti ovviamente negli ordinamenti, ma non ha mai fatto immaginare a nessuno che siano sottoposti agli ordini della politica. In Francia talvolta sì, questo è avvenuto ed è evidente che è così. In Germania, sia pure in un principio organizzativo completamente diverso dal nostro, e che non ha mai innalzato il feticcio, il totem della autoamministrazione della carriera, del suo avanzamento, della sua progressione, dell'attribuzione degli uffici apicali, tutto in un organo in cui sono i togati in assoluta maggioranza e quindi reggono questo con un patto che non è stato definire corporativo da molti anni, ecco, niente di tutto questo c'è da altre parti al mondo. Vogliamo immaginare che noi siamo quelli che hanno organizzato al meglio proprio solo la giustizia mentre tutto il resto non funziona? Potete pensarlo, io penso di no. Comunque sentiamo, si è collegato con noi Maurizio Lupi, che è vicepresidente della Camera del PDL. Abbiamo sentito il senatore La Torre all'inizio. Buongiorno onorevole Lupi, e grazie del tempo, anche se so che è all'estero. Come e perché immaginare che questa riforma, nel quadro politico in cui siamo e con le osservazioni critiche che ci ha dato La Torre, possa andare avanti e sia giusto immaginarne il compimento in questa legislatura? Beh, innanzitutto buongiorno a lei, Oscar Giannino, e ai suoi radioascoltatori. Ma io ho sentito le ultime battute che lei adesso faceva, mi sembra che il primo punto è la grande sfida che noi tutti abbiamo davanti, cioè se alcune cose di questo paese non funzionano e sono sotto gli occhi di tutti, il compito di chi è chiamato dai cittadini a governare la cosa pubblica è quello di dare una risposta concreta ad un cambiamento. La giustizia è uno di questi elementi che non funziona, oggettivamente la durata dei processi, la disparità tra accusa e difesa, l'idea che i processi tendenzialmente non siano mai giusti, ha detto adesso una commistione tra appunto le correnti politiche all'interno della magistratura e le carriere che vengono fatte. Ancora di più, uno degli elementi che tutti gli italiani volevano, ma che da decenni ormai è inattuato, un referendum degli italiani diceva che ci deve essere la responsabilità civile da parte dei magistrati, cioè se un medico sbaglia risponde civilmente del suo errore, se un avvocato sbaglia risponde civilmente del suo errore, se un giudice sbaglia nel suo processo, nella sua indagine, in tutto quello che abbiamo sotto gli occhi, non risponde assolutamente di nulla. Sono tutti elementi che provocano e chiedono un cambiamento. Allora, il fatto che finalmente ci sia una riforma, non nell'interesse di qualcuno, ma complessiva, che affronta questi temi in maniera giusta, sbagliata, ci confronteremo seriamente, mi sembra che sia la prima vera speranza di cambiamento. Se noi togliessimo per un attimo, e questo è il vero problema di questo paese, sullo sfondo il problema, come sempre da 17 anni, di Berlusconi, eccetera, che in questa riforma viene tolta, perché questa riforma non si può applicare in maniera chiara, è stato detto ieri con i suoi ministri, ai processi in corso, entrerà in vigore, purtroppo lo dico semplicemente, questi sono i tempi dell'approvazione di un Parlamento, o anche per fortuna perché c'è la possibilità di confrontarsi eccetera, solo fra 2 anni, perché essendo una riforma costituzionale l'iter previsto è ovviamente questo. Allora, se togliamo finalmente dal campo la paura, l'ombra, tutto quello che uno vuole di Berlusconi eccetera eccetera, forse abbiamo la grande occasione, insieme con tutte le positività e le critiche, di cercare di giocare, di costruire un altro fondamento, un altro palo grosso del cambiamento di questo paese. Io mi auguro però, dalle parole che ho sentito di questi commenti, che l'opposizione non perda questa occasione. Sulla riforma dell'università, proprio sempre per il conflitto eterno tra il male assoluto e il bene assoluto, si è persa questa occasione da parte dell'opposizione. C'è il grande tema del federalismo, adesso della riorganizzazione dello Stato, adesso c'è il tema della riorganizzazione della giustizia. Credo che questo sia il nostro dovere, cioè quello che la gente ci chiede, poi ci giudicherà se i cambiamenti che faremo sono efficaci e funzionano, perché l'interesse dei cittadini sia salvaguardato. Senatore Latorre, ha sentito l'onorevole Lupi, questo percorso che immagina che la legislatura va avanti in tutto il suo tempo, se riesce a compiersi coi tempi della riforma costituzionale, e che poi bisogna immaginare a quel punto, visto ciò che ha detto lei e ciò che si legge dell'atteggiamento dell'opposizione, potrebbe sfociare anche un referendum confermativo successivo, non è meglio che su temi come questo provare a dire Berlusconi lo mettiamo da parte e ci occupiamo insieme di tentare di definire, recuperando quel po' di spirito, parecchio spirito se nel merito, che costituisce un ordito più comune che separato, se andiamo ai tempi della settima riforma, della settima proposta Boato alla bicamerale. Secondo lei è veramente impossibile immaginare un percorso così, Latorre? Ma guardi, innanzitutto mi dispiace che Lupi non abbia ascoltato il mio intervento, anzi approfitto per salutarlo. Ma come avrà notato, io nel mio intervento non ho fatto alcun riferimento alla persona di Berlusconi. Verissimo. Ho fatto ben altro tipo di considerazione. Verissimo. Ritengo che una riforma di questa natura, per quello che rappresenta nell'equilibrio della democrazia italiana, è una riforma che va fatta in condizioni politiche molto diverse da quelle attuali. Ho fatto questa osservazione. Lei ha giustamente riproposto il tema della bicamerale. Mi faccia fare un piccolo riferimento a questo, anche perché insomma ricordo bene che cosa è stato quel periodo e quale grande occasione ha perso il Paese per mettersi su un'altra lunghezza d'onda. La bicamerale aveva 2 requisiti che purtroppo in questo caso non ci sono e che secondo me noi dovremmo ricreare. Il primo requisito è che il tema della giustizia stava dentro un processo di riforma che riorganizzava complessivamente la democrazia in tutte le sue manifestazioni, forma di governo, forma di Stato, il tema del potere giudiziario. Secondo, tutto era fondato sul presupposto di un clima politico costruttivo tra maggioranza e opposizione, tant'è che quando Berlusconi ritenne che queste condizioni fossero venute meno, saltò quel grande progetto di riforma. A mio avviso quello è stato un errore storico di Berlusconi, ma qui diciamo, lo affidiamo ad un altro dibattito. Certo. Sulla storia di questo paese. Detto questo, io insisto, Non bisogna star fermi, a parte il fatto che poi il percorso andrà avanti in Parlamento. Io credo che noi ci misureremo nel merito, non è che ci sottrarremo ad una discussione di merito, ci mancherebbe altro, e vedremo che cosa produrrà questa discussione. Ma la strada intrapresa credo che sia la strada sbagliata. Primo, perché non si pone il problema di creare un altro clima e altre condizioni politiche, il modo stesso in cui essa è stata presentata, prima ancora che il merito, ne sono una testimonianza. Ma a parte questo, io ho ipotizzato un altro percorso che corrisponde tra l'altro anche alle esigenze che lei stesso, dottor Giannino, sottolineava, rilevando la priorità della giustizia civile. Ci sono una serie di provvedimenti ordinari che si possono portare subito a conclusione e che incidono immediatamente sulle questioni, su alcune questioni cruciali che riguardano i tempi della giustizia, del processo, tanto penale quanto civile. Ci sono le condizioni per fare questo. Sullo stesso tema dell'obbligatorietà, della responsabilità civile dei magistrati, si può intervenire con legge ordinaria per mettere meglio a punto questo aspetto senza mettere in discussione il principio costituzionale, e si tolgano di mezzo tutte quelle leggi cosiddette ad personam che certamente condizionano negativamente il dibattito politico. È chiaro. È un terreno che noi indichiamo, non è che noi ci arrocchiamo, non è questa la reazione, e non può essere confusa la nostra posizione con quella di chi assume posizioni pregiudiziali. Infatti è a lei che ci siamo rivolti. Negativo su questa proposta. Siamo convinti che si stia prendendo la strada che peraltro rischia di non portare a nessuna soluzione dei tanti problemi che abbiamo di fronte, e nel merito ci sono alcuni aspetti che sono molto problematici, in particolare quello ai quali mi riferivo prima, che interviene dal combinato disposto di alcune norme previste. Io per primo so benissimo che la separazione delle carriere non è un tabù, e sarebbe sbagliato concepirlo come un tabù, ma attenzione, a parte il fatto che c'è già una rigorosa separazione delle funzioni, che secondo me tra l'altro tutelano ancora di più da quei rischi che lui rilevava veri di corporativizzazione dei pubblici ministeri, tanto per cominciare. Ma comunque, se il tema delle separazioni delle carriere si mette in sintonia con rinuncia all'obbligatorietà dell'azione penale e autonomia della polizia giudiziaria, il combinato disposto, l'ha detto. In discussione il principio dell'autonomia. C'è perfetto, questo è l'argomento per il quale, se si procede a una separazione netta non delle funzioni, proprio dei ruoli, per come sono oggi molto forti i pubblici ministeri, alcuni dicono li rendete ancora più forti. Io non sono di questa idea, però è un argomento sul tavolo, nel combinato disposto, come diceva la Torre. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale, poi mi tocca richiedere a Lupi un'opinione su quello che ha detto la Torre. Allora, onorevole Lupi, ha sentito le considerazioni del senatore La Torre, che ne dice? Sì, tra l'altro saluto anch'io, sempre con il rispetto reciproco. Io però faccio queste osservazioni. La prima, non è il problema di Berlusconi, ma del clima politico. Io credo che se continuiamo a usare, lo dico veramente con molta responsabilità, questi termini e non capiamo qual è la realtà, noi siamo fuori dal mondo. Qui non è il problema del clima politico, dell'aspettare che cosa, perché la realtà ci sopravanza, e uno dei problemi che abbiamo davanti noi che facciamo politica è quello di evitare che sempre di più i cittadini si allontanano da una cosa nobile e giusta che è la politica, che sono le istituzioni. Se sempre continuiamo a discutere di quando sarà il clima politico e non affrontiamo i problemi, e i problemi vanno affrontati nelle risposte immediate e concrete. La Torre diceva c'è il problema della giustizia civile, c'è il problema della durezza della durata dei processi civili, eccetera. Noi, sbagliando in maniera giusta o sbagliata, non lo so, però con il ministro Alfano sulla giustizia civile, infatti siamo partiti innanzitutto da quello, abbiamo fatto una riforma della giustizia civile. I primi risultati iniziano a vedersi nella relazione che il ministro Alfano ha fatto alle Camere un mese e mezzo fa, ha dato questi primi segnali di cambiamento. In alcuni posti, penso al Tribunale di Torino ed altri, ci sono segnali in cui un'organizzazione diversa della giustizia può avvenire e tempi tempi certi del, per quanto riguarda la durata dei processi civili, lo smaltimento delle pratiche arretrate, l'informatizzazione della pubblica, non solo della pubblica amministrazione ma anche della giustizia, può dare dei risultati. Però noi abbiamo, lo abbiamo sempre detto, io non so, anche da lei, il direttore, l'ho sentito veramente tante volte, la crisi è una grande occasione per riformare dalle fondamenta questo nostro paese. Non un, se si fa una sola fondamenta ovviamente sbagliamo, se l'unica fondamenta che si riforma è la giustizia, non l'abbiamo fatto da 17 anni, è sbagliato. C'è il grande tema della pubblica amministrazione, c'è il tema del rilancio dell'economia, della fiscalità, c'è il tema dell'università, della scuola, cioè il paese deve avere il coraggio, non aspettando un clima politico. Chi costruisce, lo dico alla Torre, il clima politico? Chi lo fa? Ma assumiamoci noi la responsabilità di farlo. Allora, una riforma complessiva, globale, della giustizia in questo paese è necessario. Il processo giusto, un processo equo, è un interesse di tutti i cittadini. Che un giudice si sia e che si garantisca che sia sopra le parti e che la durata di un processo sia ragionevole, è giusto o sbagliato? Se fino ad oggi non è stato così, c'è un problema o non c'è un problema? Se un cittadino, qualunque esso sia, poi ci sono i casi clamorosi dei politici messi in galera, l'ultimo dell'onorevole Mercadante in Sicilia, che è stato 5 anni per essere accusato di mafia e collusione o quant'altro, e poi è definitivamente innocente, esce fuori dal carcere, ha pagato per 5 anni già con l'ignominia del carcere, ma tanti cittadini, questi, chi ne risponde di questo? Oggi c'è chi risponde di questo? Allora io dico, abbiamo la forza, il coraggio, anche non ragionando solo nel breve periodo, cioè del domani, ma anche nel medio e lungo periodo, nell'interesse dei miei figli, di proporre una riforma complessiva di tutto quello che riguarda il paese, compresa la giustizia, senza avere continuamente l'alibi di conservare, perché io ho paura di questo, per i politici, per i magistrati, per le professioni eccetera, le proprie posizioni, perché noi discutiamo sempre di cambiamento, ma quando il cambiamento inizia difendiamo quello che abbiamo acquisito. Io mi dispiace esattamente che c'è sempre una barriera, guardo la reazione dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, di neanche si dice possiamo discutere, no, sciopero, basta, è l'attacco di una posizione corporativa eccetera. Mi sembra che nel nostro paese prevalga di più il conservatorismo che la voglia di cambiare, ma prima o poi la realtà, altro che clima politico, dico Nicola La Torre, altro che clima politico, se aspettiamo il clima politico la realtà ci supera, la Germania sta facendo altro. Allora, poi entreremo, adesso non credo che abbiamo tutto il tempo, ma lei l'ha già approfondito, sui contenuti di questa riforma, ma sullo che l'obbliga, faccio l'ultimo esempio, mi scuso con gli ascoltatori, sono stato lungo, adesso ci sarà la grande polemica sull'obbligatorietà dell'azione penale, ma che l'obbligatorietà dell'azione penale in questi anni sia diventata un alibi da parte del magistrato per intervenire su tutto o su chiunque, o comunque con una discrezionalità enorme e assoluta. Basta che io legga una conferenza stampa, una notizia di giornale, che possa o senta un'intercettazione telefonica che non riguarda assolutamente nulla, che siccome c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, non sto parlando di delitti veri, quelli ovviamente i reati dai comuni a quelli più gravi, che io possa intervenire. Vogliamo riequilibrare questa bilancia che il presidente Berlusconi ieri ha fatto vedere? Ecco, io credo che sia interesse di tutti. Possiamo migliorarla? Credo di sì, è la migliore riforma che si potesse proporre, saremmo presuntuosi a dirlo, però la nostra proposta e il nostro sforzo l'abbiamo fatto. L'unica, l'accusa che ci facevano è che continuavamo a fare questioni puntuali, leggi puntuali sulla riforma e non una riforma complessiva. Bene, mancano direi la devo interrompere, perché c'ho gli ascoltatori che dicono la puntata di oggi è stata fatta per far sentire le due parti politiche, è evidente che è questo, abbiamo semplicemente sorvolato su a volo d'uccello sui contenuti col professor Di Federico. La mia promessa è che noi reinterverremo nel merito solo con lui e con tecnici a quel punto, e con gli ascoltatori per approfondire. Di ascoltatori ne mandiamo in onda solo uno, scusandoci con loro, ma quello che serviva all'inizio era inquadrare politicamente. Avrete capito che il percorso è iperaccidentato, perché abbiamo scelto il senatore La Torre, che è una persona ragionevole, Lupi è una persona ragionevole, e questo non vi hanno nascosto che è una parete di sesto grado, quindi bisogna sapere che è molto complicato che si vada avanti. Nel merito però tantissimi punti vanno approfonditi. Sentiamo, per gli ascoltatori pesco tra i tanti, ohimè, mi scuso con gli altri, sono Nicola da Caserta. Prego Nicola, è anche breve per di più, si figuri. Buongiorno dottor Genino, buongiorno. Allora, io da cittadino sarò il più oggettivo possibile. È necessaria una riforma della giustizia che renda il processo più equo e veloce? Giusto, ok, entriamo nel merito. A mio parere non è con due CSM, per di più, maggiormente politicizzati, che si raggiunge lo scopo. A mio parere non è che con il Parlamento che stabilisce un ordine di leggi che si arriva allo scopo. A mio parere non è modificando l'obbligatorietà dell'azione penale che si raggiunge questo scopo. Un punto della riforma che io reputo, secondo me, ad esempio, assurdo a questo scopo: un magistrato può sbagliare solo se condanna e non quando assolve, ovvero l'inammissibilità di un ricorso in caso di assoluzione. Allora io da cittadino nel testo c'è scritto che si fa per legge, quindi non c'è scritto proprio quello che ha detto lei, però è chiaro che stiamo parlando di grandi indirizzi. Prego, concludi. Sì, infatti, come grande indirizzo il mio punto di vista è necessaria certamente una riforma della giustizia, ma a me questo tipo di riforma, per come ho letto nella bozza, per il momento sembra non la convince. Più chiaro. Se come? Non la convince. No, non mi convince perché sembra più un maggior ingresso della politica, esatto, ad priori nella magistratura e non nei punti cardine che rendono la magistratura e la giustizia stessa nevralgica in diverse situazioni. Grazie Nicola, grazie a Nicola Latorre, grazie a Maurizio Lupi. Appuntamento col professor Di Federico e altri tecnici di quando si arriverà ad approfondire nel merito. Vedrete che su tante tante cose ci sarà veramente tanto da dire, dell'interesse questa volta solo dei cittadini, delle imprese e di tutti coloro che hanno a che fare tutti i giorni con la giustizia e nel paragone tra ordinamenti. Grazie a tutti, appuntamento a lunedì. Mm-hmm.